Radio 24 Reportage. Kivu, battaglia per la terra di nessuno, di Giampaolo Musumeci. Quando ces femmes arrivent ici, tout d'abord, elles sont colériques. Quando le donne arrivano qui, innanzitutto sono in collera. Alcune si vergognano di raccontare la loro storia. Ci sono quelle che piangono e quelle che si isolano. E chi si isola aussi? Le mettiamo a letto e le facciamo riposare, perché non vogliono parlare. Sono traumatizzate. A volte bisogna aspettare 3 giorni affinché raccontino che cosa è accaduto loro. Quando le donne vengono violentate, gli aggressori le picchiano. E così le donne hanno dolori al basso ventre e alla schiena. Ci sono problemi di infezioni, di tagli del perineo. Alcune hanno fistole all'apparato urinario. E oltre a questo, altre presentano il prolasso dell'utero dopo la violenza. All'ospedale Gesom di Goma si curano le donne stuprate. Siamo in Kivu, Repubblica Democratica del Congo. Qui, nel cuore dell'Africa nera, un cuore ricco di minerali, si combatte e si muore ancora, ogni giorno. Il ricordo del genocidio Tutsi del 94 nel vicino Ruanda è ancora vivo, così come quello della prima guerra mondiale africana, conclusa nel 2002 e che ha coinvolto 8 paesi e ha lasciato sul terreno 2,5 milioni di morti. Qui in Kivu, regione dell'est al confine con Ruanda, c'è probabilmente il più alto numero di bande armate del mondo. Un recente studio europeo, confermato anche dalla rete di ONG EURAC, ne aveva individuate almeno 19. Scopi e motivazioni? Ufficialmente proteggere la popolazione e lottare per la democrazia e la libertà. In realtà tutti o quasi mirano allo sfruttamento illegale delle miniere, che il presidente Kabila ha recentemente chiuso. Così bande di militari governativi possono fare lo stesso. Qui vige la dura legge del Kalashnikov. Se ce l'hai, mangi e sopravvivi. Estrai coltan, nobium e oro. Se no, muori, specie se sei donna. La notte del 30 luglio 2010 nel villaggio di Ruvungi, sull'asse Walikale-Masisi, bersagliato ogni giorno dagli attacchi di banditi e gruppi armati, sono state violentate quasi 200 donne. 3 giorni di stupri, 3 giorni di orrore. Tutti puntano il dito sui Mai Mai Cheka, una milizia congolese che prende il nome dal suo fondatore, e gli FDLR, il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda, il gruppo armato più numeroso e potente della regione. Sono Hutu ruandesi scappati dal paese dopo i tragici fatti del 94 e sono una delle fonti di instabilità della zona. Per tutti qui sono il male assoluto. Tra le loro fila ci sarebbero anche i genocidari del 94. Lasciamo Goma, la capitale del Nord Kivu, per volare verso Walikale con un elicottero dell'ONU che trasporta sottufficiali indiani del battaglione delle tigri di stanza nella regione come peacekeeper. Pattugliamenti giorno e notte, basi in zone anche sperdute, un contatto quotidiano con la popolazione, la missione MONUSCO è impegnata ad arginare una violenza che appare inarrestabile. Sono 4.500 i caschi blu indiani schierati in Kivu. La missione MONUSCO è la più corposa al mondo, quasi 15.000 uomini. Assai criticata fino al 2008 per il suo immobilismo, ora è cambiata. È più presente sul terreno, è più vicina alla popolazione e la gente stessa richiede la sua presenza a gran voce. La presenza di una base MONUSCO significa la salvezza per il villaggio che la ospita e significa la salvezza per le donne. Irut Gebrselassie, capo missione ONU in Congo, spiega perché sono le donne le vittime preferite dei gruppi armati in Congo. Les hommes des villages concernés vont travailler dans les mines. In questo contesto, la maggior parte degli uomini dei villaggi toccati dagli attacchi vanno in miniera a lavorare e quindi non c'erano molti uomini nei villaggi al momento degli assalti. Questi attacchi avvengono spesso dopo che un'operazione è stata condotta dalle FARDC. Evidentemente, le FDLR ritornano se FARDC non tiene il villaggio da cui li ha cacciati. Tornano per vendicarsi e le donne sono attaccate perché sono loro che vengono sorprese in casa. Le donne sono le più vulnerabili a questi attacchi. Normalmente non sono armate. Ci sono altri momenti in cui si può pensare che questi gruppi armati abbiano interesse a perpetuare una certa insicurezza, perché ci sono degli interessi, ci sono delle risorse minerarie sfruttate in modo illegale e quindi l'insicurezza persistente è a loro beneficio. Tra chi potrebbe trarne ampio beneficio ci sono i Mai Mai Cheka, una formazione nata dopo che Monsieur Cheka, un imprenditore faccendiere congolese che lavorava nel settore minerario, è stato 2 anni fa estromesso da 2 società, una statunitense e una sudafricana, dal controllo delle risorse. Così ha formato un gruppo armato che, Kalashnikov in pugno, è pronto a riprendersi le miniere. Dopo gli attacchi di luglio e agosto, voci e indiscrezioni insistenti parlavano di un possibile accordo di pace fra il governo e i Mai Mai Cheka, con integrazione dei ribelli tra le file dei governativi e lo stanziamento dei Mai Mai proprio nelle zone minerarie per cui combattevano. L'accordo sarebbe poi sfumato, ma c'è chi ipotizza che le violenze di massa siano una leva politica per sedersi al tavolo con Kabila e parlare di pace. Una pace remunerata con miniere. Ma intanto i lavoratori e i minatori, o almeno la maggioranza di essi, stanno a casa. Al mercato di Jingala, vicino Walikale, le commercianti si lamentano di fronte ai banconi vuoti. Come si marcia le travaglie? Il lavoro funziona davvero poco. Va male perché hanno chiuso le miniere e non c'è più giro di affari, non si compra più nulla. E tutto perché hanno chiuso le miniere, non c'è circolazione di moneta. Se par seconda per me, le miniere. In questi villaggi le donne di notte lasciano i letti delle loro capanne vuoti. Nei villaggi di Jingala c'è solo un infermiere che cura le vittime e un manipolo di assistenti sociali cerca di dare sollievo alle donne toccate dalla violenza. Rebecca spiega come le donne ogni notte si nascondono nel fogliame della foresta e tornino al villaggio solo all'alba. Ma le violenze sessuali in Kivu non avvengono solo ad opera di gruppi armati. Albert Bumalama, il capo della polizia di Walikale, e comanda una squadra di appena 5 agenti. Racconta quanto sia faticoso far comprendere ai giovani che lo stupro è un reato. La popolazione, una volta, non sapeva neanche cosa significasse violenza sessuale. Vuol dire che un uomo prendeva una ragazza di almeno 18 anni, in età da matrimonio, e poteva sposarla così, senza rendere conto a nessuno. Poi, dopo che è stata promulgata la legge sulla violenza sessuale, allora abbiamo cercato di comprendere come applicare questa legge e dopo che abbiamo iniziato la sua applicazione, ora siamo tutti sul terreno per bandire un fenomeno che è diventato ridicolo in questo paese. Oggi è diventato ridicolo nel nostro paese. Ma quella notte del 30 luglio ha parlato solo una legge, quella del Kalashnikov. Quella notte dal villaggio di Kembe vengono a dirci che a 500 metri da qui ci sono dei militari che vogliono vedere il capo di Ruvungi. Gli uomini e il capo villaggio partono per Kembe. Arriva la notte, tutti vanno a letto. Verso le 23 ho sentito dei rumori e ho cercato di uscire in fretta al buio. I bambini dormivano nel giaciglio. Si sono messi a piangere, così qualcuno da fuori ha sentito e ha sfondato la porta, che è caduta su un bimbo che è rimasto ferito gravemente alla testa. Poi mi hanno presa e mi hanno violentata. Sono stati in 2. Tutti qui si dicono sicuri, sono stati un gruppo dei Mai Mai e FDLR insieme. La realtà è che potrebbe essere stato chiunque, anche i governativi, spesso accusati dall'ONU di questo tipo di crimini. Tutti i gruppi armati in Kivu portano la stessa divisa, usano le stesse armi, parlano le stesse lingue. La rete di ONG europee EURAC da tempo studia l'esercito congolese per ideare un piano di riforma. C'è bisogno di pagare e formare i soldati perché smettano di attaccare la popolazione. Ci vogliono delle caserme, una vera formazione non solo militare ma anche morale e giuridica. Un esercito così, insomma, allo stato attuale, protegge poco. Ripartiamo verso Niabiondo, procediamo verso nord-est a fatica. La strada è spesso interrotta a causa delle piogge e della totale assenza di manutenzione. Tra Mikumbi e Miba, un veicolo con a bordo civili e militari governativi è stato appena preso d'assalto in un'imboscata. Un militare è ferito a una gamba. Chiediamo chi fossero gli assalitori. FDLR mi rispondono in 6, ne sono sicuri, anche se erano in abiti civili e tutti armati con fucili AK-47. Noi eravamo dietro, sulla macchina. Quegli altri hanno attaccato e le Fardese hanno risposto al fuoco. E poi sono fuggiti senza prendere nulla. In ogni caso, la strada è pericolosa. Se ci fosse modo di renderla sicura, sarebbe meglio. È pericoloso. Il Il pericolo qui è continuo e la gente scappa da un villaggio all'altro. Sono loro i dannati del Congo, sfollati e rifugiati che da anni si muovono continuamente scappando dai combattimenti. Qui ci sono armi, tantissime armi, un Kalashnikov si acquista anche con $30. Trovando il miliziano giusto lo si scambia anche per un cellulare. Allora mettete insieme tantissime ricchezze minerarie, tantissime armi. La formula è esplosiva e il governo di Kabila non riesce a gestire la situazione. E a pagare il prezzo più alto sono sempre le donne. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.